pazienza e la forza per parlare. Gli ultimi risparmi reali dei gabbiani, l'orizzonte forse chissà. Con quegli occhi persi nella pelle nera, una possibilità. La motovedetta, un sorriso amico, se l'Italia ti vorrà. Hai lasciato tutto tra le onde, orgoglio, infanzia e genitori. Con un salvagente il sogno l'Occidente, con il dorado chissà. Con le mani nude ed il cuore antico, una possibilità. Con un nome nuovo, un sorriso amico, se l'Italia